Dust EM 2011. Ecco a voi l'illusionista. Ti sta dando ciò che chiedi, ma quel che vado non equivale a quel che vedi. Credi di essere in grado di scoprire dove è il trucco, ma ti sa stupire a punto di subire un furto. E tutto è frutto della tua immaginazione, la magia illusione nella maestria dell'illusore. Il sole poche persone lascia qualche situazione, non c'è un solo errore in tutta la sensibilizzazione. Ti chiedi come riesce a fare ciò che fa, è un alchimista a me, chicane verità, protagonista in sé, che di celebrità, l'illusionista. Illusionista, mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Ecco voi l'illusionista. Ecco voi l'illusionista. L'illusionista ti sta dando ciò che chiedi, e come sai l'inganno c'è ma non lo vedi. Devi essere bravo ad intuire dove è il trucco, quello da cartire che ti fa capire tutto. E con il frutto della tua immaginazione, la magia finzione, e la regia di un impostore, attore, motore, già canzone nel copione, basta un solo errore e salta l'interpretazione. Ti spieghi come riesce a fare ciò che fa, professionista in red, la sua specialità, e ti depista con la sua abilità. L'illusionista, l'illusionista. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo che lo spettacolo sta per cominciare. Mettiti comodo, comodo, che lo spettacolo sta per cominciare. L'occhio, ma ti sta crescendo il naso come Pinocchio. Ora avrai la mano più veloce dell'occhio, ma ti sta crescendo il naso come Pinocchio. L'illusionista ti conquista, ma basta una svista e tutto cambia, tutto cambia già! Ecco voi l'illusionista! Ecco voi l'illusionista! Ecco voi l'illusionista!